Giovedì 13 giugno del 2013, 87.9 la modulazione di frequenza. Questa è Radio Onda Rossa. Dal 1977, senza padrini, senza padroni, la radio è di chi se la sente. Chi se la sente può contribuire a farla vivere sottoscrivendo, ad esempio, sul numero di conto corrente postale 61804001, da intestare a Radio Onda Rossa, via De Volsci 56, 00185, Roma. Oppure basta consultare il sito della radio, ondarossa.info, alla voce Sostieni. Sulla homepage troverà l'opzione PayPal. Cominciamo subito con Visionari, visto che uno dei nostri ospiti, un documentarista, tra l'altro è anche insegnante, per cui alle 14 a lezione, quindi l'unico modo per averlo qui con noi in diretta era anticipare un po' i tempi. I nostri riferimenti, il telefono 0649 1750, per l'indirizzo di posta elettronica visionari@ondarossa.info, la frequenza l'abbiamo data, ma potete seguirci anche in streaming dal sito internet della radio. C'è l'opzione sempre sulla homepage ascolta la diretta, e poi c'è per le informazioni sulla scaletta di quest'oggi, le trovate sulla pagina di Visionari, alla voce trasmissioni Visionari, gli ospiti di questa puntata, le uscite in sala di oggi giovedì 13 giugno, i nostri suggerimenti, le nostre indicazioni sui film già in programmazione a Roma e provincia, i film in TV per la settimana sul piccolo schermo. Per quanto riguarda gli appuntamenti in giro per l'Italia di questa settimana tra festival, rassegne e proiezioni, e poi il link per riascoltare la puntata precedente, anche quelle del 2013 e parte del 2012. Bene, è con noi in collegamento telefonico Stefano Martone, co-regista del documentario Lucciole per Lanterne, che non a caso sarà presentato questa sera al Nuovo Cinema Aquila qui a Roma. Stefano, intanto benvenuto a Visionari su Radio Onda Rossa. Grazie, buongiorno a tutti. E poi no, dico non casualmente, perché oggi è una data che fa riferimento, è riferita in qualche modo al tema trattato nel tuo documentario, giusto? Sì, certamente. Oggi sono 2 anni esatti dal referendum sull'acqua che si è svolto in Italia, e il progetto del film è nato circa 3 anni fa, quando si cominciava in Italia a parlare di acqua pubblica e acqua privata. E noi ci siamo resi conto che Enel aveva comprato la compagnia energetica spagnola Endesa, e quindi era diventata proprietaria dell'intera acqua del Cile. Quindi mentre in Italia si rifletteva sulla necessità di un'acqua completamente pubblica, Enel, che è ancora al 33% industria di Stato, possedeva tutta l'acqua, il 96% dell'acqua, delle risorse idriche della Patagonia cilena e dell'intero Cile. Cosa comporta questo? In Cile i fiumi si vendono, i corsi d'acqua si vendono sui giornali, quindi vengono sezionati e venduti come fosse un qualsiasi bene materiale, e grazie a questo regalo, che poi risale alla dittatura militare, perché la Costituzione cilena è ancora in gran parte quella del regime di Pinochet, che nell'81 con il Código de Aguas privatizzò completamente le risorse idriche. Sì. E poi le risorse sono passate di mano in mano, di multinazionale in multinazionale, fino ad arrivare ad Enel nel 2008, che grazie a questo regalo che riceve dalla dittatura militare è subentrata in un progetto di grandi mega dighe della Patagonia cilena, un progetto che prevede la costruzione di 5 grandi dighe sui fiumi Pasco e Becker, che sono 2 fiumi in una regione del tutto incontaminata della Patagonia cilena. E è un progetto quindi che ha una parte cilena e poi questo partner italiano al 50%, quindi che ci vede coinvolti direttamente. Tra l'altro si è sviluppato un movimento antagonista rispetto al progetto di una diga in particolare, che comunque stravolgerà l'ecosistema. Sì, la serata di stasera in collaborazione con Patagonia Senza Dighe e con il Coordinamento Romano dell'Acqua Pubblica. E Patagonia Senza Dighe è la campagna italiana che si inserisce all'interno di una campagna più ampia, internazionale, che è Patagonia Fiore Presas, che si batte contro la costruzione di queste. In realtà il progetto prevede 5 dighe che siano collegate tra loro, tutte nella stessa regione, quindi sono, diciamo, 5 pezzi dello stesso progetto, e sia in Cile che in America Latina in generale si è appunto si è avviata già ormai da 3 anni questa campagna che cerca di opporsi a questo progetto, che di fatto poi è al servizio delle multinazionali e non dà nessun tipo di vantaggio alla popolazione locale. Lì in Patagonia non verrebbero spostate un enorme numero di persone come può accadere nelle dighe costruite in Cina o in India, ma ovviamente rimane la riflessione appunto sulla maniera in cui viene gestita l'energia e anche sul valore poi simbolico di una terra che è ancora incontaminata. Stefano, come avete strutturato il vostro lavoro? Beh, il lavoro è, diciamo, quello di cui abbiamo parlato adesso è sostanzialmente il contesto. A noi interessava partire da storie di persone normali che sono, la cui vita verrà sconvolta dalla costruzione di queste dighe. Il progetto è, il documentario è strutturato in un continuo passaggio dal passato al presente, al futuro, perché uno dei personaggi cardine del film è una signora Mapuche che negli anni 90 si oppose alla costruzione di una diga della sua terra, dica che poi fu costruita, smembrò completamente la comunità e lei si oppose fino all'ultimo e ancora oggi lotta contro, diciamo, i poteri che continuano a costruire dighe nella sua regione. Quindi lei rappresenta con il passato e anche con poi immagini di archivio, noi l'abbiamo ritrovata nel presente ma la prendiamo dagli anni 90, quello che ragionevolmente potrebbe accadere nella Patagonia cilena, perché gli attori coinvolti sono gli stessi, se queste appunto se le dighe dovessero essere coinvolte. Quindi da una parte questo personaggio che rappresenta il passato, dall'altra invece una famiglia che dovrebbe essere spostata se le dighe verranno costruite, perché nelle terre che dovrebbero essere allagate. E un terzo personaggio che unisce il passato al futuro, che invece è una signora che lavora in una radio, che da 4-5 anni ogni pomeriggio per 2 ore fa una rubrica di approfondimento che spessissimo parla del problema delle dighe, del progetto delle dighe, e lei in particolare appunto anche attraverso la sua voce noi colleghiamo il passato e il presente, perché quello che è accaduto in Patagonia è molto simile a quello che accadrà in Patagonia, è molto simile a quello che è già accaduto nel Biobío, la regione Mapuche, ma ai cileni non è ben chiaro perché non riescono sostanzialmente a fare 2 più 2, quindi la nostra sfida è proprio quello di far capire che quello che è accaduto 20 anni fa potrebbe ragionevolmente accadere ancora. Parte dal basso sostanzialmente, da raccontare di persone piccole che sono coinvolte in questi grandissimi progetti. Ti sento un po' disturbato il significato, il senso di questo titolo? Beh, il titolo parte da una riflessione di Pasolini, dall'articolo delle luci di Pasolini, che già negli anni 70 ragionava su quello che era il strapotere delle multinazionali nel vuoto di potere, nell'articolo delle lucciole, e del fatto che quando le multinazionali appunto hanno questo enorme potere, sostanzialmente lo Stato invece è o al servizio delle multinazionali oppure comincia a perdere forza. E questo era vero all'epoca di Pasolini, è vero ancora adesso, e in qualche modo si affianca anche alla riflessione che all'intervento che fece Allende alle Nazioni Unite, nel quale appunto parlava del dominio delle multinazionali, sempre nello stesso periodo di Pasolini, per cui il film vuole essere una riflessione su questi temi che appunto vanno in parallelo sia dall'intervento di Allende all'ONU che con gli scritti di Pasolini, sia nell'articolo delle lucciole che poi nell'articolo di Sviluppo e Progresso, in cui lui parla di appunto la differenza filosofica che c'è o che dovrebbe esserci tra il concetto di sviluppo e quello di progresso. E il titolo fa riferimento a quello, oltre che la chiave di lettura, diciamo, più semplice, che quello di un errore grossolano, cioè di scambiare poi delle fonti di energia del tutto accentrate, come potrebbero essere rappresentate da una lanterna, che sono le grandi dighe, rispetto invece a un concetto di energia molto più puntiforme, molto più basato su piccole fonti distribuite su tutto il territorio. Tra l'altro il Cile è però lunghissimo, quindi l'energia che proviene da queste dighe dovrebbe poi essere trasferita a 2500 km più a nord attraverso un elettrodotto che attraversa tutto il paese, regioni sismiche, parchi nazionali, terre indigene, quindi anche il progetto del prodotto è molto controverso e speriamo che verrà contestato. Stefano, dopo la presentazione di oggi, che tipo di diffusione avrà il vostro documentario? Beh, la presentazione segue la velocità del film che è stato assassinato nell'ambiente di Torino. Adesso sì. Noi abbiamo due principali obiettivi, quello di avere una diffusione attraverso i festival ambientali o diciamo, più politici, e quello poi invece di dare una di lavoro a chi ci ha appoggiato nelle prime fasi del progetto, perché questo lavoro è stato reso possibile anche grazie al crowdfunding attraverso una produzione da casa. 300 sostenitori hanno comprato delle copie del film prima che il film fosse realizzato, e quindi la proiezione di stasera, oltre che poi quella a Napoli il 18, a Milano il 20, servirà anche per incontrare i nostri coproduttori e insomma discutere del lavoro che poi abbiamo portato avanti anche grazie al loro entusiasmo. Poi insomma dopo si vede, adesso ci concentriamo appunto su questa restituzione, poi sulla diffusione dei festival. Non c'è ancora ovviamente distribuzione, il documentario è sempre complicato, ma facciamo certo. Passo alla volta, vediamo dove arriviamo. Bene, allora intanto ricordiamo l'appuntamento di quest'oggi al Nuovo Cinema Aquila qui a Roma, Stefano. Sì, ci vediamo stasera alle 21 al Nuovo Cinema Aquila. Appunto faremo una discussione che ricorda festeggeremo il compleanno del referendum, e poi vedremo questo film che dura 45 minuti, e ci sarà spazio anche per ragionarci insieme. Allora un saluto e a risentirci presto. Grazie mille. Ciao Stefano. Buona giornata a tutti. Anche a te, ciao. Stefano Martone, co-regista del documentario Lucciole per Lanterne, oggi al Nuovo Cinema Aquila qui a Roma. Il nostro Davide Manuli, ben ritrovato. Ciao Federico. Allora, te l'avevo promesso un mese fa parlando di Beckett, dell'altro film che era riuscito con distribuzione indipendente. Mi avevi annunciato l'uscita oggi del tuo film La leggenda di Caspar Hauser e ho detto ci risentiamo giovedì 13, e così è. Tra l'altro sei uno degli ospiti nostri più assidui, un amico, insomma, è una presenza consueta la tua, questo mi piace. Ma io ti ringrazio che ci sentiamo oggi, a parte che siamo amici, ti ringrazio perché oggi c'è il film e è veramente importante per me parlarne e dare delle informazioni. Allora, cominciamo dalla storia, per chi ci ascolta, di cosa si tratta, cos'è questa leggenda? Ma la leggenda è una storia vera del 1830, che però Caspar Hauser è un ragazzo realmente esistito, morto nel 1833, che però la cosa diciamo che a me interessava è che più che storia vera, Caspar Hauser nei due secoli passati è diventato più mito che storia vera, è entrato proprio nella mitologia, nella leggenda, e questo aspetto mitologico mi interessava trattare più che farne un film letteralmente ispirato alla storia vera, come ha già fatto benissimo Werner Herzog, che era inutile assolutamente emularlo, farne un doppione. Perciò fai conto che a me interessava fare quello che avevo in testa io, era fare il seguito di Beckett, sempre in Sardegna, sempre in bianco e nero, sempre nel deserto, sempre con sei personaggi, facendo un dittico che passasse dall'assurdità della vita umana. Volevo fare una metafora sulla società nella quale viviamo, su un manifesto diciamo sul non senso, sul grande nulla, perché secondo me viviamo dicendo tutto il contrario di tutto, viviamo non comunicando mai, non umanizzando mai, non socializzando mai, viviamo diciamo l'essere umano è completamente chiuso in una bolla che secondo me non ha nessun senso. Io volevo farne una metafora prendendo spunto da Caspar. Davide, nella una riflessione che facevo scrivendo la recensione per Filmap del tuo film è che a mio avviso è anche una riflessione, un apologo sul su quello che è il confronto col da quello che è altro da noi, in cui la società proietta le proprie pulsioni, perché poi nel tuo film ognuno interpreta a modo suo le poche parole che Caspar pronuncia. Assolutamente, ma è assolutamente così. Il praticamente nel film Caspar arriva, diciamo, quello che io volevo trasmettere era proprio questo: lui è il nuovo arrivato, è lo straniero, è lo sconosciuto, è il diverso. Arriva e praticamente lui non è che lui è se stesso, non dà niente, è semplice, puro, innocente. E non fa altro che vivere essendo se stesso, non fa altro che questo, veramente nient'altro. Gli altri invece, diciamo, lui diventa lo specchio per le proiezioni degli altri, sì. Perché invece sono gli altri che iniziano, come dire, attraverso a dire tu sei questo, tu sei quello, o ti voglio così, o fammi così. E di fatto quello che accade è che lo straniero, il diverso, lo sconosciuto lo si ammazza poi, letteralmente, lo si ammazza, diciamo, prima in vari modi e poi si arriva ad ammazzarlo fisicamente, perché è diverso, perché non si vuole conoscere, ascoltare, e perché in nome, diciamo, della cultura, dell'educazione, tutto questo, come hai detto tu, non si fa altro poi che una proiezione, certo, mentale di quello che abbiamo in testa noi. Un'altra cosa, un altro spunto che dà il tuo film è quello della dipendenza. C'è un pusher, uno spacciatore, che poi è interpretato da Vincent Gallo in due ruoli, e poi c'è la dipendenza dalla musica. Sì, diciamo che la cosa, secondo me, bella, buffa, burlona, ironica del film è che lui inizia facendosi una pera di un metro, proprio un perone, letteralmente una siringa lunga 90 centimetri, e di una sostanza che non si sa quale, perché ecco, non può essere eroina o cocaina, perché è un perone metaforico, e perciò si immagina, diciamo, che il pusher col perone sia sostanza, ma poi la cosa bella è che poi invece si vende musica, la sostanza è la musica nel film, sì. Si vende musica, cioè si spaccia musica, si vende musica, si trasmette musica e si diventa dipendenti dalla musica. Perciò fai conto che l'unica cosa che il padre, diciamo il precettore, il tutore di Caspar, che è Vincent Gallo da sceriffo, protegge e custodisce nel fortino, perché è un film western tecnologico, nel suo fortino da sceriffo tiene, custodisce il Caspar, gli trasmette Vincent Gallo, è uno sceriffo, è un ex, è uno sceriffo che faceva il DJ, è un ex DJ in pensione, perciò fai conto che lui, avendo preso il suo nuovo figliol prodigo Caspar, che aspettava, gli insegna la sua conoscenza, il suo mestiere e la sua saggezza, e gli insegna musica. E questo, anche se vuoi, è un'altra delle metafore del film, cioè nel senso, nella storia vera Caspar Hauser si insegnavano decine di cose, no? Anche lì, senza ascoltarlo, senza fermarsi, lo si è aggredito, devi imparare la matematica, la letteratura, il cavallo, devi imparare mille altre cose, a vestirti bene, a mangiare bene, a mettere i gomiti sul tavolo, milioni di cose. Caspar è morto quasi da attacchi epilettici per il sistema nervoso frantumato, prima ancora che lo si ammazzassero, mentre invece nel mio film non gli si insegna assolutamente niente, tranne l'arte di fare il DJ, sul serio tra l'altro. Nel film Vincent Gallo fa davvero il DJ in presa diretta, con dei veri live set, e insegna davvero a suonare a Silvia Calderoni, che è una vera DJ e fa i veri DJ set nel film in presa diretta. Senti Davide, un altro punto di forza del tuo film sono i monologhi in folle libertà di Fabrizio Gifuni. Volevo chiederti come nascono. Allora, i monologhi nascono da la collaborazione precedente con Fabrizio, che mi ci teneva a mettermi in contatto con Giuseppe Genna, che saluto e gli faccio i suoi auguroni per il libro Fine Impero di Minimum Fax, che è uscito settimana scorsa e so che sta andando benissimo. Mi mise in contatto con Giuseppe Genna perché diceva: sarebbe bello se riusciamo a fare un po' un triangolo nel quale tu scrivi con Giuseppe, scrivete per me qualcosa. E col tempo poi ce l'abbiamo fatta, perciò diciamo che io ho conosciuto i libri di Giuseppe, ho conosciuto, diciamo, un pochino Giuseppe, è nato un rapporto di stima e di rispetto professionale enorme, perché io la stima che ho per Fabrizio è la stessa che ho per Giuseppe Genna, che non conoscevo e che Fabrizio mi ha portato a conoscere. Io sono, diciamo, difficilotto, scrivo da solo, ma quando poi Giuseppe mi ha mandato le bozze per le cose che aveva scritto, ho pensato: finalmente ho trovato, ecco, la persona con cui scrivere. E Giuseppe ha scritto, diciamo, il cuore del film, un monologo di 5 minuti. Gifuni fa il perno del film. Allora, Caspar Hauser è il nuovo arrivato, è questo essere cristico, santo, puro, che arriva, e come il Cristo, quando è arrivato, non tutti l'hanno riconosciuto. Nel film Caspar Hauser, anche se ha tatuato Caspar Hauser sul petto, non lo riconoscono, non riescono a conoscerlo, a riconoscerlo. L'unico personaggio del film invece che dice "io so chi tu sei" è il prete, ed è fatto a Gifuni, perciò fai conto che il prete, in teoria Fabrizio, è quello che riconosce il Cristo, quello che riconosce Caspar Hauser da subito. E a Genna avevo chiesto di scrivere, dato che fa un prete, con la pistola, con su scritto dietro prete, sulla tunica da prete, gli avevo chiesto di fare se mi faceva dei monologhi non cristiani o cattolici, ma ispirati ai Veda indiani. Perciò è diventato un prete shivaita, advaita, molto più assolutista. E credo che insomma è abbastanza importante il lavoro che ha fatto Fabrizio sui monologhi di Genna. Davide, da oggi nelle sale quanti sono i numeri? Dove uscirà? Ah, guarda, senza fare apposta, davanti l'elenco. No, ti giuro. Allora, velocemente: Roma, Cinema in Trastevere, Nuovo Cinema Aquila, Cagliari, Cinema Odissea, Oristano, Multisala Ariston, Torino, Cinema Centrale, Bologna, Cinema Nusadella, Bari, Cinema Armenise, Foggia, Sala Farina, Lecce, di Bidesse. Bene, allora vediamo come andrà. Intanto cominciamo con il passaparola, chiaramente, che è la cosa che funziona, ecco, di più in questi stasera io sono al Pigneto, al Nuovo Aquila, alle 22, per un salutino. Benissimo. Allora, un abbraccio, Davide, e spero a presto. Ecco, a presto, grazie Federico, e mi raccomando, se volete vedere qualcosa di assolutamente diverso, completamente folle, se siete, diciamo, delle persone dalla psiche matta e pericolosa, è il film per voi. Bene, un abbraccio, ciao Davide. Un abbraccio, ciao Federico. Ciao. Un abbraccio. A Davide Manuli, regista della leggenda di Caspar Hauser, in sala da oggi. Visionari su Radio Onda Rossa ogni giovedì dalle 14 alle 15. Tutte le informazioni sul sito internet della radio, ondarossa.info, la voce trasmissioni Visionari. Rossella Schillaci, ben ritrovata a Visionari su Onda Rossa. Buongiorno a tutti. Quest'oggi, per parlare con te, avevo, siccome Io poi mi segno sempre tutti gli appuntamenti e prima o poi sento tutti quelli di cui mi interessa parlare per due tuoi lavori. Uno uscito con cinemaitaliano.info, che lo aveva pubblicato e poi ha fatto una rassegna in cui era incluso il tuo Altra Europa, e l'altro che è stato in programmazione in due festival, al Bellaria Film Festival e anche a Cinema Ambiente, che è Il Limite, giusto Rossella? Sì, giusto. Allora, direi circolate entrambi in parecchi festival. Esatto. Partiamo brevemente anche da Altra Europa per poi passare al Limite. Per chi ci ascolta, cos'è Altra Europa? Guarda, in realtà posso parlare di entrambi, perché entrambi derivano da uno stesso progetto che avevo scritto nel 2008. Cioè, mi piaceva allora raccontare un po' la situazione dei migranti e dei rifugiati politici che arrivavano da Lampedusa, cioè arrivavano a Lampedusa dal Nord Africa, e poi da lì appunto per chi otteneva insomma il permesso di soggiorno poteva scegliere quale città italiana, in quale città italiana vivere. Ed era iniziato anche dall'idea di lavorare con i pescatori, perché allora erano proprio i pescatori che lavorano in questi pescherecci d'altura che arrivano fino alle coste della Libia, della Tunisia, quindi di fronte soprattutto al Nord Africa, pescano quindi nella rotta che seguono i migranti per raggiungere Lampedusa, e perché all'inizio appunto nel 2008 erano proprio i pescatori che prestavano i primi soccorsi e spesso salvavano i migranti. Quindi l'idea era proprio di partire dal mare, dalla linea di confine che separa le acque europee da quelle africane, per capire poi tutto il percorso che facevano i migranti in Italia, quindi cosa accadeva a Lampedusa e cosa accadeva poi una volta che ottenessero i permessi di soggiorno. Poi, anche perché nel 2008 non si sapeva tanto, era difficile, si sapevano solo i numeri, quanti arrivavano, quanti per sfortuna insomma non ce la facevano. In realtà poi ci sono state una serie di complicazioni produttive e nel 2009, come sappiamo, sono iniziati i respingimenti e non hanno più permesso ai pescatori di prestare i soccorsi, anzi addirittura alcuni sono stati accusati di favoreggiamento all'immigrazione clandestina. Quindi mi sono concentrata su un gruppo di rifugiati politici, per lo più somali e sudanesi, che avevo conosciuto a Torino, che una volta arrivati a Lampedusa e ottenuto il permesso di soggiorno non avevano nulla se non quel pezzo di carta, non sapevano la lingua, non sapevano dove andare, non avevano nessun aiuto economico, e molti vivevano per strada. A Torino avevano, grazie all'aiuto dei ragazzi dei centri sociali, avevano occupato una vecchia clinica abbandonata da più di 10 anni e ci vivevano alla fine così in 500, in situazioni insomma abbastanza disagiate. Quindi mi sono concentrata su di loro all'inizio, appunto per capire come era andato il viaggio, quali erano le loro scelte, perché avevano deciso di partire, e poi mi sono resa conto che invece non si sapeva nulla di loro, appunto come vivevano, che difficoltà avevano, quali erano le sfide che dovevano affrontare. E quindi con Altra Europa ho seguito in particolare una ragazza e 3 ragazzi somali sudanesi per un anno, quindi per capire cosa fanno, come riescono a imparare la lingua, a trovare un lavoro e com'era la vita all'interno di questa clinica fino a quando alla fine del 2009 l'hanno sgomberata. Tra l'altro ne avevamo già parlato con te di questo lavoro in qualche tempo fa su questa frequenza. Quindi poi abbiamo realizzato il film, non è stato facile montarlo perché avevo insomma più di un anno e mezzo di materiale, cioè materiale girato nell'arco di un anno e mezzo, quindi c'era veramente tanto. L'abbiamo montato e l'abbiamo presentato, tra l'altro è andato molto bene, soprattutto all'estero. L'hanno preso anche a Doha, alla Jazeera Film Festival, e quello che mi colpiva è che nessuno in realtà sapeva come erano le condizioni di vita dei rifugiati. Tutti sapevano del difficile sbarco, del difficile arrivo, ma nessuno sapeva quanto fosse difficile anche il dopo, quindi è stato molto interessante mostrarlo all'estero. Sì. Una volta terminato questo film, insomma, mi era rimasto, avevo tutti i contatti con i pescatori che avevo già conosciuto sulle coste siciliane, mi era rimasto un po' nel cuore l'idea di fare qualcosa con loro, e quindi abbiamo deciso di tornare e concentrarci su Mazara del Vallo, cambiando però il progetto, perché ormai comunque insomma tanto era stato raccontato proprio sugli sbarchi e soprattutto la situazione era diversa. Però mi sono resa conto, stando molto di più lì, che per esempio a Mazara del Vallo tutti gli equipaggi dei pescherecci sono misti, quindi metà sono siciliani e metà tunisini, e a Mazara c'è la comunità tunisina più numerosa d'Italia. Quindi mi sembrava interessante forse anche raccontare questo, com'era la vita lì per entrambi, no? Per le due comunità, come erano i rapporti e com'è la vita in mare, perché poi mi sono resa conto che è un lavoro molto duro, stanno 3 settimane al mese in mare aperto, non hanno quasi contatti con le famiglie, il lavoro veramente logorante, faticoso, quindi mi sembrava un'altra storia, ma che era interessante raccontare anche lì. È questo il limite a cui fa riferimento il titolo? Sì, sì, è il limite, il titolo è un po' più, posso dire, metaforico, nel senso che ci sono dei limiti molto ben definiti tra mare e terra, tra il mondo degli uomini e quello delle donne che vivono da sole, si creano una loro rete di aiuto, di solidarietà. Spesso tra tunisini e siciliani ci sono dei limiti anche purtroppo marcati, quindi era un po' l'idea appunto di mondi diversi, situazioni diverse che si incrociano. Tra l'altro è un universo in forte crisi, data la pesca industriale che caratterizza il Mediterraneo. Ne abbiamo parlato spesso con altri documentaristi che hanno realizzato lavori più vari sulla pesca, sul tonno, eccetera, soprattutto in Sicilia. Guarda, sì, purtroppo sono anni ormai che questo settore è in crisi ed è un peccato, perché appunto soprattutto in Sicilia c'è ad esempio la flotta peschereccia più numerosa d'Italia, che pesca proprio in alto mare, ma ogni anno pare sia sempre peggio, un po' per la carenza del pescato a causa di queste grandi imbarcazioni che utilizzano anche mezzi insomma di pesca non sempre legali, da quello che si sa. Il caro gasolio, per cui per loro insomma rifornire la barca di gasolio per stare in mare 3 settimane è veramente dispendioso. Da quello che ho visto, quasi tutti gli armatori hanno seri debiti e molti stanno distruggendo le barche pur di rientrare. Infatti ogni anno si distruggono sempre più pescherecci e la flotta diminuisce. Una situazione abbastanza disastrosa per tutti, sia per i tunisini che per i siciliani, anche perché a Mazara non vengono pagati in base al pescato, cioè una volta che si ha ricavato del pescato viene diviso in parti più o meno simili tra l'equipaggio, cioè chi ha più responsabilità prende due parti e mezzo, chi ne ha meno ne prende solo una, quindi anche loro purtroppo dipendono da che tipo di pesca riescono a fare, della quantità, quindi non c'è neanche per loro un minimo garantito ogni mese, questo li porta veramente a essere sempre più stanchi, ma non ci sono alternative in quelle zone, non riescono a trovare nient'altro. Rossella, il limite dopo questa presenza festivaliera che viaggio farà? E allora adesso, ma è stato già in parecchi festival, Salina, Bergamo Film Meeting, al Festival del Cinema Africano di Milano, è stato in Estonia, adesso il prossimo mese andrà in 2 festival nel Veneto, uno a San Vito Lo Capo e poi a settembre a Marsiglia, insomma farà un giro un po', spero. Una bella navigata, insomma. Sì, sì, sì. E mentre per i pescatori sono contentissimi di essere. Sì. Mentre Altra Europa già è uscito in DVD per cinemaitaliano.info. Sì. E, sì. Informazioni online dove si possono trovare rispetto ai tuoi lavori? Allora, le potete trovare sul nostro sito che è www.azzulfilm.com. Benissimo. Rossella, e anche sulla pagina Facebook di Azul. Azul, benissimo. Rossella, sì. È sempre un piacere, io spero di risentirti prossimamente. Va bene, grazie mille. Ciao, un abbraccio. Grazie, a presto, ciao. Ciao Rossella. Rossella Schillaci, regista dei documentari Limite e Altra Europa, tra gli altri, tra gli tanti realizzati da Rossella di cui abbiamo parlato oggi. Per comunicare con noi l'indirizzo di posta elettronica visionari@ondarossa.info, potete seguirci sia online, anzi prima in modulazione di frequenza sugli 87.9 e poi online dal sito internet della radio, che è ondarossa.info. Sulla home page c'è l'opzione ascolta la diretta. Davide Manca, direttore di Fabrique du Cinéma, la carta stampata del nuovo cinema italiano, che sarà presentata qui a Roma oggi 13 giugno, giovedì 13 giugno, all'Arancera di San Sisto. Davide, benvenuto a Visionari su Radio Onda Rossa. Ciao a tutti, come va lì? Tutto bene, tutto bene. Una nuova... Siamo già qui all'Arancera di San Sisto, c'è un sole terrificante. Ci vediamo allora quando è un po' più fresco. Senti Davide, allora raccontaci un po' di questa nuova avventura editoriale. Ma noi abbiamo creato questa rivista Fabrique du Cinéma solo per un motivo: promuovere il giovane cinema italiano, cioè tutto quello che è nuovo, che è alternativo, che è quasi rivoluzionario, noi lo promuoviamo, diamo la possibilità ai giovani registi, ai giovani autori di essere conosciuti in tutta Italia, almeno, e speriamo in tutta Europa. E raccontaci allora di questo progetto, come si è articolato? Noi, come realtà di Fabrique, esistiamo da oltre un anno, siamo dei meeting point a Roma, degli eventi, sa, dove tutti i giovani che fanno parte del mondo del cinema si incontravano per vedere i loro cortometraggi, le loro opere, e poi abbiamo detto: ragazzi, ma tutto questo materiale, tutta questa energia, mettiamola sulla carta stampata. Ed ecco che è nata la rivista, è nato Fabrique. In tempi di crisi, per quanto riguarda in generale sicuramente, ma poi la carta stampata in particolare. Sì, è un'impresa folle, ma come il nostro obiettivo, se vogliamo veramente cambiare il cinema italiano dobbiamo attuare una rivoluzione, quindi vai, usiamo la carta stampata, usiamo la stampa vera, cioè diamo qualcosa in mano che è tangibile e si può toccare. Ma naturalmente abbiamo sviluppato anche la parte web, perché i confini, insomma, dobbiamo pure in qualche modo oltrepassarli. Senti, come è strutturato il giornale? Il giornale è diviso in rubriche dove noi analizziamo dai mestieri del cinema, cioè ogni numero ci sarà un diverso mestiere, appunto dallo scenografo al tecnico del suono al direttore della fotografia, tutti i giovani, tutti under 35, oppure la rubrica icone, dove noi intervistiamo magari un grande del cinema italiano, un Bellocchio, Italiani, passati numeri, e chiediamo a loro non di parlare di loro stessi, ma di parlare bensì di come vedono il nuovo cinema, cioè il futuro del cinema italiano in mano ai giovani, dare dei consigli e di dare delle previsioni. Ho visto che proprio riguardo a questo, visto che non siete nati oggi, qual è lo stato, a vostro avviso, del nuovo cinema italiano? Lo stato del nuovo cinema italiano è che c'è grande fermento, c'è un grande sottobosco di autori veramente incredibili. Il problema è che hanno quasi paura di uscire allo scoperto, perché molti, dietro la scusa dell'impossibile, della produzione che non esiste, noi invece incitiamo tutti a dire: prendiamoci questo obiettivo come un obbligo, come un dovere. Diciamo che il cinema italiano siamo noi giovani, il futuro è nostro, quindi dobbiamo fare. E allora bensì vadano bene anche le produzioni low cost, low budget, i progetti indipendenti, per arrivare un giorno al mainstream, noi andiamo a quello. Però bisogna fare, bisogna iniziare. Ci sono grandi autori. Noi vediamo adesso con questo proliferare delle web series, non so se insomma guardate quello che succede sulla rete, sì. Finalmente è tornato in auge in Italia il genere, il film di genere. Sono generi fantastici, fantasy, sci-fi, noir, thriller, tutti i tipi. E anche delle cose di ottima qualità. Allora noi diciamo, noi di Fabrique diciamo: o siamo, proviamoci. Ce la possiamo fare. Tra l'altro ho visto che tra i testimonial della rivista ci sono un po' di amici, ho visto delle foto che Claudio Noce, Claudio Giovannesi, insomma ce ne sono. Ci sono tanti giovani, tanti anche adulti che hanno capito lo spirito della rivista e ci sostengono, ci promuovono anche loro in giro. È la grande notizia che daremo questa sera, magari la diamo in anteprima qua, che a settembre noi andremo al Festival del Cinema di Venezia come rivista ufficializzata, e anche lì organizzeremo un mega evento per promuovere appunto questi giovani autori. Ecco, come svilupperete questa cosa degli eventi, questo aspetto degli eventi di cui accennavi all'inizio? Noi siamo una rivista trimestrale. Ok. Usciamo 4 volte all'anno. Sì. Quindi abbiamo pensato che a ogni uscita di ogni nuovo numero realizzeremo un evento, un meeting point per promuovere sia il numero che sia le opere video da vedere. E la serata di oggi prevede tanti linguaggi, anche quello teatrale, anche quello musicale. Sì, perché essendo un meeting point dal vivo ci saranno delle grandi performance di attori in carne e ossa sul palco. Ci sarà dei cantanti, tutti sempre under 35, c'era la nostra copertina Margherita Vicario, giovane talento come attrice che canterà per noi, ci saranno le industrie indipendenti che faranno una performance teatrale, il regista Tommaso Agnese. Veremo, insomma, ci sarà un bel po' di cose da vedere e da fare questa sera. E naturalmente ci saranno i corti dei giovani registi. Oh, come trasmissione noi ci occupiamo spesso e volentieri, anzi quasi sempre, di documentario. Ecco, rispetto al documentario, che tipo di attenzione avete? Ecco, noi sul documentario invece siamo molto indietro. Non perché non ci piace o perché... Ma per ora stiamo cercando di spingere quello che è un po' più il cinema classico a livello di genere, ecco, dalla finzione. Sì. Quindi, sicuramente il documentario svolge una grande parte, molti registi emergenti approdano al cinema appunto tramite il documentario, però noi siamo un po' latenti in quello, sì. Quindi più attenti al cinema di genere, come dicevi all'inizio, insomma. Più attenti al cinema di genere, che ha reso grande il cinema italiano dopo, insomma, negli anni 70, perché adesso c'è grande crisi, secondo me va riscoperto. Siamo bravi a farlo, vediamo in giro grandi cortometraggi che superano a volte di livello anche i film, chiamiamo, degli autori noti italiani. Allora dai, proviamoci. Certo. Senti, per avere informazioni su questa nuova creatura online, dove si può cercare? Noi da questa sera lanceremo il nostro nuovo portale www.fabricdiocinema.it. Benissimo. E ci vediamo più tardi allora. Sì, allora vi aspettiamo questa sera dalle 19 in poi alla lanciata in Sarsisto, di fronte alle Terme di Caracalla. Benissimo. Un abbraccio, Davide, a dopo. A presto, ciao. Davide Manca, direttore di Fabrique du Cinéma, la carta stampata del nuovo cinema italiano che sarà presentata oggi all'Arancera di San Sisto a Roma, vicino alle Terme di Caracalla. In collegamento con Rossella Lamina, co-regista del documentario Dear Mr. Ken Loach, dovrebbe essere con noi, se si è spostata, se ha preso posizione. Eccola qui. Rossella, benvenuta a Visionari, a Radio Onda Rossa. Salve a tutte e a tutti. Allora, Mr. Ken Loach, che cosa ha fatto Mr. Ken Loach? Ricordiamolo per chi ci ascolta. Sì, riassumiamo in breve la vicenda da cui nasce tutto il progetto, il documentario. E è successo che lo scorso Torino Film Festival, l'ultima edizione del 2012, Ken Loach aveva ricevuto un premio alla carriera, il Gran Premio Torino si chiama, per la motivazione era per gli alti meriti morali della sua opera. Ecco, Ken Loach ha deciso di rifiutare questo premio in solidarietà con dei lavoratori precari e licenziati di una cooperativa appaltatrice del Museo Nazionale del Cinema. Il Museo Nazionale del Cinema, va ricordato, che è poi l'ente di natura pubblica che gestisce il Torino Film Festival. Questa vicenda ha suscitato un grandissimo clamore. Diciamo che pressoché l'intero mondo del cinema italiano si è schierato condannando il gesto di Ken Loach, utilizzando insomma epiteti vari, definendo un gesto megalomane, un gesto stupido, narcisista, eccetera eccetera. Noi invece abbiamo pensato che era importante lasciare traccia di questo fatto. Sì, anche sì. Perché insieme a Nicola Di Lecce sono, insomma, da diverso tempo ci occupiamo proprio attraverso il documentario dei temi del lavoro, ci sembrava appunto una vicenda veramente esemplare quella che era accaduta a Torino, esemplare appunto sotto vari punti di vista, l'aspetto che riguarda un po' gli intellettuali italiani l'abbiamo accennato, ma c'era anche un'altra forma di esemplarità che era quella del uno sfruttamento, una condizione del lavoro che ci sembrava esemplare, anche perché l'ente appaltante appunto è un ente pubblico, ci sono dei lavoratori che sono stati licenziati da questa cooperativa in conseguenza al fatto che avevano rifiutato di abbassarsi ulteriormente lo stipendio, insomma parliamo comunque di paghe che sono veramente risibili. E poi ci sembrava che mettesse in luce un altro aspetto non secondario di quello che sta vivendo questo paese, ovvero anche una connessione fra appalti, politica, affari di varia natura. Perché il presidente della cooperativa Rear, che aveva licenziato i lavoratori, è anche un consigliere regionale della regione Piemonte. E poi c'era anche un aspetto che trovavamo veramente interessante, ovvero il protagonismo di questi lavoratori che non hanno accettato di essere messi così all'angolo facilmente. Quando hanno saputo che il proprio datore di lavoro stava per premiare, con quella motivazione che vi ho spiegato, che stava per premiare Loach, hanno deciso di rendergli nota questa vicenda, e il regista a quel punto ha scelto di schierarsi apertamente con i lavoratori con questo gesto forte. E un'altra cosa ci premeva sottolineare, infatti volevo ricordare, il titolo è Dear Mr. Ken Loach, che sia l'incipit della lettera, della prima lettera che i lavoratori hanno scritto al regista, è anche, diciamo, in parte un tributo che abbiamo voluto fare a Ken Loach, un tributo sia perché amiamo moltissimo il suo cinema e quindi anche un modo per dirgli che ci è caro e che riteniamo molto importante la sua estrema coerenza, la sua conseguenzialità fra quello che ci racconta nei film e quello che fa nella vita quando si tratta di prendere posizione, di scegliere da quale parte stare. Rispetto ai lavoratori e alle lavoratrici della cooperativa, Rossella, quante sono le persone coinvolte, e visto che comunque hanno deciso di non subire in silenzio, e che forme si sono dati di auto-organizzazione? Allora, la situazione è, come spesso succede nel mondo del lavoro precario, è molto frammentata, perché questa cooperativa non solo diciamo è subappaltante per il Museo Nazionale, dove questi lavoratori svolgono vari servizi, dalle pulizie all'accoglienza dei visitatori eccetera, ma svolge diverse attività sempre per la regione Piemonte, quindi si tratta complessivamente di tanti lavoratori, quelli che sono stati licenziati sono stati 5. È chiaro che diciamo la loro battaglia prosegue, e prosegue anche con altre forme. Hanno, per esempio, recentemente hanno fatto un camper dei diritti e sono andati a piazzarsi sotto al comune di Torino, che non dimentichiamo il fatto che anche il comune è uno degli enti cogestori del Museo Nazionale del Cinema, no? Quindi continuano con la loro battaglia, la continuano dal punto di vista sindacale, hanno dovuto lottare anche perché l'organizzazione che avevano scelto, che è l'USB, non veniva riconosciuta come interlocutore dal datore di lavoro, quindi c'è anche un elemento, no, di diritti sindacali negati in questa vicenda. Sì. E quindi continuano sicuramente la loro battaglia. Volevo aggiungere un altro aspetto, da un lato che Loach continua a seguire gli sviluppi della vertenza e quindi continua a essere in contatto con i lavoratori. Un altro aspetto che ci tenevo a dire è che tutto il nostro progetto nasce nel momento in cui noi siamo riusciti a partecipare ad un'assemblea che è stato un momento straordinario, ovvero dopo la chiusura del Torino Film Festival, Loach ha deciso di incontrare quei lavoratori che gli avevano scritto e ha voluto un incontro pubblico. Questo incontro si è trasformato in un momento per noi anche estremamente emozionante, perché in quella sala, e poi è stata in una sala cinematografica dove Loach ha incontrato i lavoratori della Rear, sono arrivate tutte le vertenze che in quel momento erano in campo nella città di Torino, non solo per quanto riguarda il lavoro, ma sono arrivati non so, quelli che occupavano le case, sono arrivati gli studenti, ciascuno portando la propria esperienza, e devo dire che appunto abbiamo deciso che questa storia andava raccontata proprio perché l'emozione così forte che ci è arrivata dal vivere quell'esperienza in cui tutti questi soggetti, è come se il gesto di Loach gli avesse finalmente restituito quella dignità che viene negata a tutte queste realtà del mondo del lavoro, delle lotte sociali, che normalmente vengono raccontate dai media, vengono raccontate in particolare dalla televisione, o non vengono raccontate, o se vengono raccontate, vengono raccontate soltanto per l'elemento disperato e disperante. Io qui non voglio dire che questo paese e questa Europa stiano vivendo un momento semplice, però quello che riteniamo veramente che sia importante colmare è che non è possibile dare esclusivamente spazio, accendere i riflettori sul mondo del lavoro e delle lotte solo quando, anzi non sulle lotte, sul mondo dei lavoratori, di chi occupa le case eccetera, soltanto quando questi fanno gesti disperati o possono essere, vogliono essere etichettati come delinquenti, persone che mettono in crisi l'ordine pubblico. Ecco, una cosa che veramente ci sta a cuore, e in questo senso si ricollega col discorso qual è il ruolo degli intellettuali, dei cineasti in questo paese, è importante colmare questo vuoto secondo noi, ed è importante raccontare in modo diverso un paese che lotta, e che lotta anche in modo organizzato. In chiusura, Rossella, voi state portando in giro il vostro lavoro anche oltre confine, creando degli eventi con la proiezione, la vostra presenza e degli incontri pubblici. Volevo chiederti, per chi volesse saperne di più e contattarvi online, dov'è possibile cercarvi? Allora, noi abbiamo un canale su YouTube, che è il canale dell'Associazione Mondi Visuali, dove possono essere visti non solo il trailer del film, ma anche dei lavori, altri lavori che abbiamo realizzato in precedenza, prevalentemente appunto sulle tematiche del lavoro e delle lotte. E possiamo essere contattati a un indirizzo email, che è quello mondivisuali@tiscali.it, per chiunque volesse organizzare delle proiezioni pubbliche di questo documentario. E vorrei sottolineare il fatto che abbiamo deliberatamente scelto di non metterlo in rete. Noi siamo ben felici che questo documentario venga utilizzato in occasioni di lotta, in occasioni di dibattito assembleari, come peraltro ha circolato insomma in questo periodo in Italia, e anche ha incominciato fuori dall'Italia, perché riteniamo che i temi che sono sul piatto, su cui abbiamo provato a dare così uno spunto di riflessione, debbano servire a incontrarsi, a discutere faccia a faccia delle cose. Insomma, la rete è un grande strumento, però può anche trasformarsi in un grande momento di solitudine. Invece riteniamo che sia importante rivedersi in faccia e cercare di capire come proseguire, come riorganizzarsi. Quindi siamo ben felici di dare il nostro lavoro a chi ha intenzione di costruirci qualche cosa attorno, insomma. Io ti abbraccio, Rossella, e ci sentiamo presto. Un abbraccio a voi e grazie per l'attenzione. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Rossella Lamina, co-regista del documentario Dear Mr. Ken Loach. Torna a farci visita Elisabetta Antonioni di Cinemovel per l'ottava edizione di Libero Cinema in Libera Terra, attraversando 10 regioni a partire dal 18 giugno fino al 18 luglio, quindi un mese intero. Elisabetta, ben ritrovata. Grazie Fabrizio, è sempre Federico. Piacere essere ospiti della vostra trasmissione. Sì, hai già detto, Libero Cinema in Libera Terra parte l'ottava edizione, il 18 giugno saremo ospiti del Parlamento Europeo col film L'intervallo di Leonardo Di Costanzo, che ci accompagnerà nella proiezione. Quindi prima tappa in Europa con il festival che ha ricevuto il patrocinio del Parlamento Europeo, attraversa tutta l'Italia e si conclude a Parigi il 3 ottobre. Una novità importante che volevo segnalarvi è la 100ª tappa che realizzeremo a Portella della Ginestra il 10 luglio. È un evento a cui teniamo moltissimo, perché nel 2006, quando il festival è nato insieme alle cooperative di Libera Terra, nessuno di noi pensava di raggiungere questo risultato. E come abbiamo avuto modo di dire, anche come Ciotti e Scola ripetono spessissimo, sono 100 semini di cultura che abbiamo cercato di piantare perché cresca in questo paese una nuova consapevolezza e una nuova forma di sviluppo culturale, perché la cultura ci aiuta a essere liberi. Allora, spieghiamo anche come è strutturato questo festival in movimento. Le tappe come sono strutturate? Raccontaci un po'. Dunque, la carovana parte da Genova il 24 giugno, ha un calendario densissimo perché il 25 saremo a Castelfranco Emilia, il 26 a San Giorgio di Mantova, il 27 giugno a Galbiate, il 28 a Rimini, una nuova tappa, poi in Puglia a Bitonto, il 29 Brindisi, il 30 giugno, Scansano Ionico il 1 luglio, Polistena il 13 luglio, Sessaurunca il 5, Casapesenna il 6, Belpasso il 9 luglio, Portella della Ginestra il 10, lo ricordavo prima, Trapani l'11 luglio, Santa Elisabetta di Agrigento il 12, Capo d'Orlando il 14 luglio, Gela il 16, Pollica il 18 luglio. Tantissime sono le location in cui verranno presentati i film che abbiamo selezionato quest'anno insieme a Fabrizio Grosoli. Ne dico alcune per rendere l'idea di che cos'è questo festival itinerante. Tra i film che abbiamo scelto c'è appunto La nave dolce di Vicari, e questo film è un film che abbiamo scelto perché venga rappresentato e proiettato nel porto di Brindisi, per raccontare appunto nel luogo in cui le vicende si sono svolte, quindi lo sbarco dei 20.000 albanesi trattati dal nostro paese in un modo barbaro, lo rappresentiamo proprio in quel contesto in cui le storie si svolgono e si raccontano, e noi insieme, in questo caso a Vicari, le riportiamo al pubblico. Sui beni confiscati alle mafie, Belpasso è una delle nostre tappe storiche. L'anno scorso è un bene confiscato alla mafia, l'anno scorso abbiamo proiettato a ridosso purtroppo dell'agrumeto a cui era stato dato fuoco nei giorni precedenti. La stessa cosa succede nei territori in Sicilia, ma anche in Puglia, ma anche in Calabria, dove si coltivano delle particolari qualità di grano, per esempio il signore Cappelli, che vengono violentate, attaccate dalle organizzazioni criminali. Quando si giunge al momento del raccolto ci sono sempre degli attentati nei beni confiscati alle mafie, e proprio in questi posti noi portiamo il cinema per fare in modo che attraverso la visione collettiva partecipata dal pubblico e dai ragazzi che partecipano ai campi di estate liberi si dia la possibilità di contrastare la violenza e l'umiliazione che le persone e i territori subiscono per uno scatto di rinascita di questo paese. Quanti sono i titoli che porterete in giro? Dunque, i titoli che portiamo in giro sono 10, abbiamo detto di La nave dolce di Vicari, poi ci sarà un film che ci piace moltissimo, che è L'impenetrabile di Daniele Incalcaterra, di cui probabilmente voi avete già parlato, presentato al Festival di Venezia, che racconta. Daniele Incalcaterra è straordinario in questo racconto, perché è lui che eredita un grandissimo lotto della foresta nel Paraguay, decide di dedicare, di restituire queste centinaia di ettari ai proprietari reali, storici, agli indio del Guaraní, ma incontra tantissime resistenze da parte della mafia locale. Un altro film che presentiamo in anteprima, direi, altri due film che presentiamo in anteprima, che sono in questo momento al Biograph Film Festival di Bologna, che poi con noi attraverseranno le piazze d'Italia. Il primo è The House I Live In, che nominato all'Oscar, appunto, che racconta la colossale lotta alla droga lanciata dagli Stati Uniti e il suo fallimento, quindi quante risorse economiche sono state impegnate per raggiungere un risultato pari a zero. L'altro film che porteremo nelle piazze d'Italia è The Gatekeepers, sul conflitto tra Israele e Palestina, ma visto da un punto di vista straordinario, che è quello del racconto di sei ex responsabili dei servizi segreti israeliani, che senza remore e senza nulla tacere raccontano di questo disegno che con estrema coerenza perseguita i palestinesi dal 1948. Un altro film che abbiamo scelto è Ali agli occhi azzurri, per raccontare appunto la diversità e come l'inclusione sociale parte dalle diversità, ma può portare a dei risultati quando c'è l'intenzione di superare le diversità culturali per raggiungere una sintesi culturale e di sviluppo. Ancora un altro film che racconta invece in questo caso la Sicilia è Terra Matta di Costanza Quatriglio. Un altro film che riportiamo già proiettato da Libero Cinema in Libera Terra è Il Sangue Verde, che racconta i fatti di Rosarno. In questo caso è stata proprio la cooperativa di Polistena che ci ha chiesto di fare questo film perché nel bene confiscato di fronte al quale proiettiamo sono stati aperti spazi pubblici di condivisione anche con Emergency, quindi racconteremo che cosa è successo a Rosarno e come si è evoluta la situazione in questo periodo e che cosa fanno le organizzazioni di solidarietà per contrastare il fenomeno del caporalato. Mm-hmm. Un altro film che di qualche anno fa, invece di oltre 10 anni fa, che riproponiamo è appunto il film di Faenza, quello dedicato a Don Puglisi, sì. e che verrà appunto proiettato a Portella della Ginestra. E anche in questo caso, appunto, Alla luce del sole, è un film che ci è proprio stato chiesto dai ragazzi della cooperativa per ricordare questa figura di questo straordinario sacerdote. Elisabetta, per le informazioni nel dettaglio sul programma, ci dai qualche indirizzo internet? Sì, vi do qualche indirizzo internet e anche un'anticipazione che la diretta web, come sempre, può essere seguita su cinemovel.tv e quest'anno, proprio perché raggiungiamo la 100ª tappa, le storie che racconteremo delle persone che incontriamo, delle situazioni e dei territori saranno raccontate attraverso una sorta di almanacco delle immagini che Libero Cinema e Libera Terra ha raccolto in questi 8 anni. Benissimo. Quindi presenteremo proprio un almanacco di questo festival a partire dal 2006 ad oggi per capire come si è evoluto questo percorso verso la legalità e come il cinema l'ha attraversato raccontando le sue storie. Quindi cinemovel.tv è il sito da tenere presente per seguirci in questo lungo percorso che si concluderà il 18 luglio. Elisabetta, come sempre, molto esaustiva, un abbraccio e a risentirci presto. Mi fa sempre piacere, spero che avremo un altro collegamento durante la carovana, così potremo perché dire no. Che cosa sta succedendo. Perché no? Intanto ti abbraccio, un saluto e in bocca al lupo. Anch'io, grazie mille, a presto. Ciao. Ciao. Elisabetta Antonioni di Cinemovel per l'ottava edizione di Libero Cinema in Libera Terra, 10 regioni italiane dal 10 giugno prossimo al 18 luglio. Oh, abbiamo raggiunto Anita Kravos per parlare, l'attrice Anita Kravos, per parlare con lei dell'esperimento Camera di Specchi, il video workshop per giovani aspiranti videomakers delle minoranze. Questo succede a Trieste, è iniziato il 10 giugno, andrà avanti fino al 16. Anita, intanto benvenuta a Visionari su Radio Buongiorno, ciao, bentrovati a tutti. Come va? Bellissimo, è stata una giornata molto molto intensa, quella dell'altro ieri, perché con i ragazzi provenienti da culture minoritarie di tutto il mondo, sono 18 i ragazzi, abbiamo fatto 6 ore di laboratorio sul tema della recitazione. Tutti loro hanno fatto un piccolo esperimento su se stessi, su che cosa significa recitare, in particolare che cosa significa essere diretti e dirigere un attore. Oh, come è nato questo progetto e come si sta sviluppando? Guarda, io so soltanto la parte, diciamo, esecutiva, perché okay. Io ho l'aspetto più proprio pratico del contatto con i ragazzi. Lo so che l'organizzazione che mi ha contattato si chiama Dropout, Ivan Borman è la persona che ha ideato il progetto, penso, sì, per sviluppare, sì, la relazione tra culture minoritarie sul confine, perché a Gorizia, io sono di Gorizia, nata a Trieste, lì abbiamo sempre scambi interculturali, questa è un po' la nostra peculiarità, è per certo questo che si svolge sul confine. E il giorno l'11 hanno avuto 4 ore di laboratorio e di masterclass con Teo Teardo. So che è stato molto molto interessante per i ragazzi, perché hanno scoperto che non soltanto l'immagine, ma a volte è più l'aspetto sonoro a comunicare. Mm-hmm. Oh, tra l'altro tu sei un'attrice per lo più di cinema, ma noi ci incontriamo invece spesso a teatro. È vero. Con Federico spesso ci incontriamo a teatro prima di che ci stacchino i biglietti, facciamo quella breve coda assieme, da un momento di scambio, di suggerimento, per dirci: hai visto quella cosa? Ah, dovresti andare a vedere quell'altro. Io non ce l'ho fatta vedere Tony Servillo a teatro e mi mangio le mani, perché mi sono persa, penso, lo spettacolo dell'anno, non lo so. Non lo sai e non te lo posso neanche dire io, perché l'ho perso anch'io. Comunque, Anita, diciamo, come poi... oltre al workshop ci sono anche dei materiali internet che utilizzano questi 18 allievi? Intendi materiali internet? Che cosa intendi? Cioè, come è strutturato? Cioè, oltre a questi workshop, allora, i ragazzi specifici. Si sono incontrati un anno fa e hanno, sì, incominciato a stendere una sceneggiatura. Okay. Questa sceneggiatura adesso verrà messa a punto con l'aiuto di Davide Del Degan, sì, che è regista Nastro d'Argento per un cortometraggio 2011. E una volta sistemata e messa a punto la sceneggiatura, faremo le riprese di questo cortometraggio scritto dai 18 componenti del laboratorio, e verrà montato, quindi realizzeranno un vero e proprio cortometraggio coadiuvati sotto la guida di Davide Del Degan. La realizzazione concreta è l'aspetto che interessa di più questo laboratorio Camera, esatto, di Specchi di Dropout. L'aspetto di iniziare, però l'aspetto più creativo, diciamo, dall'inizio alla fine, cioè pensare un'idea, realizzarla su carta, riscriverla durante le riprese e riscriverla durante il montaggio. L'idea è, insomma, che il film si chiude, quando si chiude al montaggio lo stanno esperendo un po' alla volta. E quindi devo dire che stanno facendo. Dimmi. Quindi un cortometraggio collettivo, questa è la dimensione, insomma, che vi siete dati. Il grande azzardo, perché come tu sai, quando ci sono più menti pensanti è difficile, perché sono tutti molto creativi, hanno culture diverse, idee, sono ragazzi molto molto svegli, puoi immaginarlo. e adesso sono proprio oggi, in questo momento sono chiusi, stanno facendo fumare le menti per tirare le fila della sceneggiatura. Domani a metà giornata dovrebbe consegnare, dire, diciamo, chiudere almeno quello che riguarda la scrittura. E c'è un riferimento online per chi volesse saperne di più? Forse ne sai più tu, perché Ivan ti avrà fornito un sito, Camera di Specchi. Sì, sono un po' antica, io sono nata nel secolo scorso e lo rappresento appieno, ecco. Sì, aiutami tu. Sì, no, è Camera di Specchi, basta andare su un motore di ricerca, si trova tutto, insomma. Sì, penso che come nome sia abbastanza unico. Anita, e soprattutto se il prossimo anno ci sarà nuovamente il bando, invito chiunque sia all'ascolto, che appartenga ad una cultura minoritaria oppure che parli una lingua particolare, non so, ci sono dei ragazzi che parlano il carnico, ad esempio, chiunque voglia partecipare, prendere parte alla prossima edizione, insomma, di farsi sentire, penso che si possa partire anche il prossimo anno con un nuovo carrozzone del cortometraggio. Benissimo, allora ci salutiamo con tornando al cinema, perché tu sei protagonista di un film che uscirà tra qualche settimana, inizio luglio se non sbaglio. Sì, il 4 luglio esce il film di Matteo Pellegrini, Italian Movies, di Indiana, distribuito Eagle Pictures. Benissimo, avremo modo sicuramente di sentire lui. Raccontaci brevemente com'è stato questo lavoro, che ha rappresentato per te. Il film che io continuerei a girare di più, perché dietro le quinte è stato divertentissimo. Partecipano tra gli attori Alexei Guskov, l'attore russo che ha fatto il concerto, Le Concert, che avrai senz'altro visto, Enrique Boigny, d'aspetto africano, in realtà francesissimo, Neil Souza, d'aspetto indiano, in realtà britannicissimo, Michele Venitucci, tra gli italiani, Tiziana Catalano, la sottoscritta, che reinterpreta il ruolo di una donina di Es, che non parla bene italiano, ama però il personaggio di Michele Venitucci, ci arrampichiamo su un albero, sboccia l'amore, ma il vero tema del film è l'amicizia, questo gruppo di 7 personaggi che fanno le pulizie negli studi televisivi dove viene girata una soap opera e incominciano a chiamare i loro connazionali a fare dei filmini. Tutto quanto inizia perché rubano una piccola telecamera, fanno un filmino di un matrimonio di un loro connazionale, vendono i DVD e incominciano a fare dei soldi. Piano piano mettono in moto una macchina che li arricchisce. Alla fine chiamano i loro connazionali negli studio ad utilizzare le scenografie di questa soap opera per mandare dei messaggi video a casa. Allora c'è il cingalese che nella cucina di questa soap opera manda un saluto alla mamma: qua tutto bene, in Italia mi sono arricchito. Insomma, ci sono, c'è questa rappresentazione dell'Italia molto divertente. E alla fine arriva il nostro capo, interpretato da Filippo Timi, e naturalmente, insomma, finisce come una vera commedia, male quindi per noi, ci bastonano, ma lo vedrete al cinema dal 4 luglio. Bene, magari ne parleremo anche con il regista proprio il giovedì d'uscita. Ci vediamo a teatro, Anita. Allora ci vediamo a teatro, presto a tutti. Un abbraccio, ciao. Ciao. Ciao, ciao, ciao. Anita Kravos, l'attrice Anita Kravos, per la Camera di Specchi, video workshop per giovani aspiranti videomakers delle minoranze a Trieste dal 10 al 16 giugno. E con lei chiudiamo Visionari di questa settimana. L'appuntamento è giovedì prossimo dalle 14 alle 15. Tutte le info le trovate sulla pagina internet della radio ondarossa.info, sul sito internet c'è la voce trasmissioni Visionari, ma anche sulla pagina Facebook di Visionari.